Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. L'Europa alla prova dei conti. Non c'è solo la legge di stabilità italiana. Tutti i paesi devono comunicare le loro intenzioni entro la mezzanotte di oggi a Bruxelles. E allora a Bruxelles andiamo subito da Gigi Donnelly. Sì, buongiorno Anna, un saluto agli ascoltatori. Effettivamente entro la giornata di oggi vanno presentate dunque quelle leggi di stabilità e crescita che vengono fissate ormai nella costruzione dell'Unione Europea ormai da 15 anni, quindi il cosiddetto PSC. Il PSC è dunque quel patto cui l'Europa si impegna con il rafforzamento di Maastricht che dunque tende progressivamente a definire una gestione comune del budget e degli sforamenti. Ecco. Naturalmente quindi giornata più che altro di attesa per quanto riguarda il termine, che comunque non è tassativo ma consigliato, e che inizia quella fase successiva che è poi l'analisi e l'eventuale assunzione di consigli e poi sanzioni. Ma insomma, questo anche nella giornata di Bruxelles, che peraltro è molto ricca. Sentivo poco fa il commento su all'Italia e naturalmente la decisione presa nel nostro paese. Ecco, vi posso dire a questo proposito che la Commissione ha comunicato poco fa che sta studiando i dettagli dell'operazione e che per ora non ha dunque nulla da aggiungere rispetto a quella che è stata la posizione invece espressa in maniera molto, come dire, sonora dagli inglesi. Ecco Gigi, di Alitalia noi parleremo anche tra poco, proprio per quanto riguarda il dossier e il capitolo europeo, ma ci sono anche altre questioni sul tavolo oggi. Sì, oggi ha fatto invece piuttosto scalpore la decisione assunta dai ministri dell'ambiente che riguarda invece l'automobile, nel senso che l'Unione Europea aveva raggiunto un accordo a livello di Parlamento per innalzare il muro dei cosiddetti 95 grammi di CO2 a chilometro. Bene, ieri l'accordo è stato cambiato, o meglio l'orologio quasi temporale della posizione ambientale europea è stata riportata indietro di un anno, quando su richiesta della Germania e dunque delle lobby dei costruttori tedeschi il limite è stato di nuovo innalzato. Di fatto, o meglio, il limite permane, ma il tempo di applicazione dal 2020 è stato per ora portato al 2024. Quindi insomma c'è anche maretta intorno a questo tema, perché la politica ambientale europea negli ultimi anni ha subito parecchi colpi. E grazie a Gigi Donnelly da Bruxelles. Sentivamo, per l'Italia c'è aperto ancora il capitolo all'Italia, dopo l'approvazione del piano anche questo dovrà transitare dall'Europa, nessuna decisione ufficiale dalla Commissione, ma già si esprime in qualche modo il Parlamento europeo. Per Sergio Cofferati, eurodeputato del PD e membro della Commissione Mercato Interno, tutto dipende da come sono state scritte le misure adottate. Sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Un intervento di altri soggetti pubblici è ragionevole, in qualche caso addirittura utile, però deve fare i conti con le normative europee. La linea di demarcazione tra un intervento legittimo e degli aiuti di Stato è spesso molto sottile. Conterà molto la modalità che verrà scelta per consentire l'intervento delle Poste, sia verso gli utenti delle Poste, che non possono essere privati dei vantaggi che hanno ad investire in quell'azienda senza aver dato il loro esplicito consenso, se mai dovesse accadere, sia verso la normativa europea. Poi le proteste di British sono da mettere in conto in quel mercato, che è un mercato in sofferenza, che si sta restringendo, le difficoltà degli altri o l'impossibilità a risolvere le difficoltà degli altri fanno il gioco di tutti i competitori che ci sono. E il Parlamento europeo ha chiuso un report sulla presenza delle donne nei board delle società, dove continuano a trovare molti ostacoli sul loro cammino. Nel documento votato si chiede che al 2020 la presenza femminile sia al 40%, dal 15% attuale. Evelyn Regner, eurodeputata del gruppo Socialisti e Democratici, fa una prima lista dei paesi più virtuosi e dei paesi meno virtuosi. Tra gli studenti buoni, dice, la sentite, c'è la Francia, con un sistema di quote moderno e sanzioni davvero efficaci. Anche l'Italia ha un buon livello e si vedono successi. La Germania è questa volta sul tavolo dei rimandati, non sta facendo i propri compiti, dice la Regner. Al momento non ci sono donne nei vertici delle compagnie più grandi e non ci sono procedure né la previsione di regole. Staremo dunque a vedere cosa faranno i tedeschi. Nel frattempo però noi ci fermiamo qui. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati e l'Europa torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.